Laura, io ci rifiuto di tutto, dello studio, del lavoro, del militare, del matrimonio. Sono per l'alternativa boemiana, non so se tu. No, io no. Veramente, questo mi stupisce, ti faccio molto più libera, molto più sciocca. Sì, sono libera, però non come dici tu. Vabbè, mica è obbligatorio pensare in grande, ci possiamo fare pure un po' di sesso tu libero. Tu detto no, lo capite l'italiano voi di Pescara? No, N-O. Oh, si può sapere perché con tutti sì e con me no? Chidari, chidari, chidari, hola. Chidari, chidari, chidari, hola. Chidari, chidari, chidari, hola. Chidari, chidari, chidari, hola. Chidari, chidari, chidari, hola. Chidari, chidari, chidari, hola. Chidari, chidari, chidari, hola. Chidari, chidari, chidari, hola. Per cantarti una canzone, la giusta sul balcone e lì sopra ci sei già. Scusa che ho beccato in testa, non volevo sapere che. Vieni giù, facciamo festa, devo parlare con te. Ma me la dai, sì o no? Sono passati tanti anni, ci vediamo spesso mai. Sono tanti me a fare, te lo chiedo ma non me la dai mai. Cioccolati e rose, facci che lei ti ricevo da te. Trova le scuse o le mie cose, dai, vienici da me. Dammela, dammela, vieni due, dammela, dammela, dammela, dammela, solo me. Dammela, dammela, vieni due, dammela, dammela anche a me. Che rabbia uno proiettato, viene spiegami se senti poi ma so che con gli altri tu fai altro e perché dico ma non ti dico me, sono incazzato ma